Storie italiane. Alibaba e i 40 ladroni. Tanto tempo fa, in una città persiana, viveva un mercante di tappeti che aveva due figli. Uno chiamato Cassim, l'altro Alibaba. Dopo la morte del padre, l'avido Cassim prese le redini dell'attività del padre, scacciando Alibaba. Cassim sposò una donna ricca. Alibaba dovette mantenere sua moglie e i suoi figli. Si guadagnava il pane e il burro tagliando e vendendo legna. Un giorno, Alibaba, raccogliendo legname nella foresta, improvvisamente sentì il galoppo di numerosi cavalli. Si nascose dietro l'albero, aveva tanta paura. Vide un gruppo di 40 uomini a cavallo che trasportavano dei sacchi e si fermarono nei pressi di un grosso masso ai piedi di una montagna. Hanno spade e pugnali sulle loro cinture. Sono certamente una banda di ladri. Che cosa stanno facendo nella foresta? Uno dei ladri, che sembrava il loro capo, si mise davanti al macigno. Apriti sesamo! Alibaba non poté credere ai suoi occhi. Il masso non era altro che una porta d'ingresso della grande grotta. I ladri entrarono all'interno della grotta e la porta si chiuse dietro di loro. Alibaba era sconvolto e non riuscì a muovere un solo muscolo dal terrore. Dopo un po' di tempo, la porta si aprì di nuovo e uscirono i ladri con le mani vuote. Hanno lasciato i sacchi all'interno della grotta. I ladri salirono a cavallo e s'addentrarono nella foresta. Oh, questo deve essere il nascondiglio del loro tesoro. Alibaba era molto curioso. Decise di entrare nella grotta. Si fermò davanti al macigno e gridò. Apriti, sesamo! La porta si aprì come prima. Alibaba entrò nella grotta. Oh! C'erano enormi mucchi d'oro, argento, oggetti preziosi, diamanti, rubini e molto altro che Alibaba non vide mai nella sua vita. Alibaba si strofinò gli occhi dall'incredulità, ma il tesoro che vide era vero. Prenderò alcune monete. I ladri non si accorgeranno di nulla. Alibaba riempì un sacco di monete e andò a casa. Guarda che cosa ho trovato. Alibaba svuotò il sacco di monete d'oro di fronte alla moglie. Sua moglie era stupita di vedere così tanto oro. Hai rubato queste monete? È una lunga storia. Non ho rubato niente. Sono già state rubate. Perché non li contiamo? No, non possiamo contare così tante monete. Ti prego, vai a casa di mio fratello e porta con te una bilancia. La moglie di Alibaba corse rapidamente a casa del cognato. Cara, mi serve la tua bilancia questa sera. La riporterò domani mattina. Che cosa devi pesare? Niente, solo alcuni chicchi. La moglie di Cassim era una donna astuta. Pensava che Alibaba avesse qualcosa da nascondere. Così mise della cera sotto la bilancia e le diede alla moglie di Alibaba. La moglie di Alibaba pesava le monete d'oro ed era molto felice della grande quantità. Siamo diventati ricchi! Possiamo comprare qualsiasi cosa! Non così presto! Tutti sospetteranno di noi! Non possiamo permettere a nessuno di conoscere il nostro segreto! La moglie di Alibaba accettò la condizione di mantenere il segreto. Il secondo giorno, la moglie di Cassim scoprì il loro segreto vedendo la bilancia. Ha immediatamente informato Cassim circa la ricchezza di suo fratello. Quindi Alibaba ha delle monete d'oro. Dove le ha prese? Io devo scoprirlo. Cassim era così invidioso che non riuscì a dormire. Si diresse a casa di Alibaba, suo fratello. Ali, come stai, fratello? Sono venuto qui per chiederti se hai bisogno di qualcosa. Non esitare a chiedere. Chiedi tutto quello che vuoi. Il tuo fratello maggiore è sempre qui per te. Oh, fratello, sono contento che ti preoccupi per me, ma ho abbastanza ricchezza. Non ho bisogno di nulla. Ricchezza? Spiegami un po'. L'innocente Alibaba non riuscì a tenere il segreto tutto per sé e raccontò tutto a Cassim, tutto sui ladri e sulla caverna. È fantastico! Ci andrò domani. Dopotutto, i tuoi soldi sono la mia responsabilità. Devo prendermi cura di tutto. Qual è la parola magica per aprire la caverna? Apriti sesamo! Apriti sesamo, apriti sesamo. Me lo ricorderò. Apriti sesamo! La mattina seguente, Cassim lasciò la sua casa con 4 muli robusti per portare con sé l'oro. Sarò il più ricco di tutti i ricchi! Giunse alla caverna e gridò: Apriti sesamo! E la porta si aprì e si chiuse dietro di sé. Meraviglia! Incredibile! Quanto oro! Quanti gioielli! Porterò tutto via da qui! Cassim riempì i sacchi con tutte le monete e le gemme. Ma quando arrivò alla porta per tornare a casa, iniziò a pensare. Qual era la parola? Apriti orzo? Apriti grano? Apriti porta! Apriti porta! Qualcuno mi apre! Nella sua concitazione, Cassim dimenticò la parola magica e rimase bloccato all'interno della caverna. Dopo un po', udì il rumore di tanti cavalli. 40 ladroni erano tornati nella grotta. Apriti sesamo! Mentre la porta si apriva, i ladri videro Cassim seduto in ginocchio davanti alla porta. Senza chiedere una sola spiegazione, il capo lo uccise con un pugnale e lasciò il suo corpo dentro la caverna. La moglie di Cassim andò da Alibaba per informarlo della scomparsa di Cassim. Se diretta alla grotta, meglio andare a cercarlo. Alibaba entrò nella grotta e trovò il corpo di Cassim. Oh, no! Lo mise su un mulo e lo portò con sé a casa sua. La cameriera di Cassim, Morgiana, sentì tutto sull'accaduto. Dobbiamo nascondere la verità della sua morte a tutti. Andrò dal medico per chiedere qualche medicina, così possiamo fingere una malattia. E domani annunceremo la sua morte. Tutti accettarono questo piano. Passarono pochi giorni, ma la moglie di Cassim non sopportò il dolore e morì. Ormai non ho nessuno da servire. Permettimi di lavorare nella tua casa. Alibaba sapeva che lei fosse una ragazza intelligente e che potrebbe tornare utile in futuro. Così condusse Morgiana a casa sua. Il giorno seguente i ladri tornarono nella grotta. Dov'è il corpo del morto? C'è qualcun altro che conosce questo segreto? E sa della grande ricchezza che abbiamo raccolto? Prima che lo perdiamo, dobbiamo scoprire chi è il nostro nemico. Vai al villaggio e scopri chi è morto di recente. Tutti i ladri si sparsero nel villaggio per scoprire il nemico. Un ladro si diresse alla casa del medico. Buongiorno, dottore. Conosce per caso qualcuno che è morto recentemente? Sì, Cassim è morto. Gli diedi una medicina alla sua cameriera. Mi descrisse i sintomi. Ma è morto. Mi dispiace. Era veramente ammalato. Dov'è la sua casa? Non vive più nessuno in quella casa, ma un fratello è Alibaba, che vive nel vicolo. Il ladro sospettò che Alibaba deve essere l'unico che potesse portare con sé il corpo, così durante la notte si diresse da lui. Non c'era nessuno nel vicolo, fece un segno sulla porta. Domani porterò la mia banda e ucciderò tutti in quella casa. La mattina seguente, Morgiana vide il segno sulla porta. Morgiana capì che la famiglia di Alibaba era in pericolo. Così mise un segno in ogni casa del vicinato con lo stesso marchio. A mezzanotte i ladri tornarono al villaggio, ma erano confusi perché in ogni casa videro lo stesso marchio. Tornarono indietro delusi. Torneremo domani e lo acciufferemo. Il capo prese le redini della situazione. Era il più saggio degli altri, non segnò la casa, ma memorizzò la casa così da poterla ricordare. Prese 40 mule e 40 botti vuote. Una la riempì con dell'olio. Nei barili restanti chiese ai suoi ladri di nascondersi. Il capo si travestì come un mercante di petrolio e andò alla casa di Ali Baba. Buon uomo, chi sta cercando? Sono un mercante di petrolio che viaggia in Asia per vendere l'olio. È quasi notte e sto cercando un rifugio per trascorrere la notte. Ha percorso una grande distanza. Entri, si accomodi nella mia umile casa. Fammi vedere i tuoi barili. Oh, certamente, perché no? Una bella ragazza come te deve prima soddisfare la sua curiosità. Morgiana aprì il barile pieno d'olio. Si rasserenò. Il capo fece un sospiro di sollievo. Entrarono in casa. Morgiana preparò una deliziosa cena per la sera. Servì la cena e notò uno degli anelli al dito del commerciante. Capì che l'anello era simile a quello di Ali Baba che acquistò con il tesoro. Dubitò nuovamente. Lentamente si avvicinò ai barili e bussò. Usciamo, grande capo? Morgiana capì il trucco. Controllò tutti i barili e trovò il ladro che si nascondeva dentro. Prese la canna piena d'olio e lo riscaldò in un grande calderone. Poi versò una bottiglia di olio caldo in ogni barile. In questo modo i ladri furono puniti. Di notte il capo uscì per chiamare i suoi ladri, ma non appena aprì il barile rimase sconvolto e spaventato. Fu intrappolato nella sua stessa trappola e scappò via dalla paura. Il giorno dopo Morgiana raccontò ad Ali Baba l'accaduto. Hai salvato la mia vita. Non posso ringraziarti abbastanza. Mia cara, da ora in poi sarai membro di questa famiglia. Non sarai una domestica. Grazie, mio signore. Tutti furono felici come una vera famiglia. Ali Baba era l'unica persona che conosceva il segreto della caverna del tesoro. Apriti, Sesamo!